L'uomo uccide l'amico a sprangate davanti a tutti. Ride e ha brandelli di cranio nella giacca. Ha sparato al vicino e gli ha aperto una spalla. L'uomo stupra la figlia. L'omicidio. Ha sparato al vicino e gli ha aperto una spalla. Gioco d'azzardo.